E buonasera, ben arrivati sulla frequenza di Broadcast Italia. Edith con voi al microfono questa sera. Da Broadcast Italia ci sono due gruppi questa sera con noi. Dal vivo i Mama Klum. E poi più tardi, o in un'altra puntata, nella seconda parte di Broadcast Italia e di Edith, scusate, ma saranno i Fonderia Romana, la Fonderia Romana. Ma questa sera, dal vivo, con noi, in questo momento, ci sono i Mama Klum, che sono qui in studio, si stanno preparando, stanno entrando con le chitarre, perché sicuramente suoneranno qualcosa dal vivo. Oltre a farci sentire la loro musica, sono Marco Sindona, voce e chitarra, Lorenzo Mazzè, chitarra e cori, Simone Gervasi, batteria, Francesco Tibaldi, basso. Broadcast Italia. Mama Klum con noi. Si stanno preparando in studio. Eccoli, sono pronti. Cominciano subito con qualcosa dal vivo. Mama Klum. Ma non lo so, qui abbiamo delle chitarre. Partono subito queste chitarre, vogliono qualcosa oppure no? Che ne pensate? Beh, sì, possiamo direi partire. Che volendo possiamo partire con una delle nostre prime composizioni. Circa un anno fa è nata questa canzone, si chiama Prima o Poi, e racconta di un amore estivo, quello che poi si spera sempre che duri per sempre, ma poi... Invece... Mama Klum, a Broadcast Italia, in edit, live. Una scia troppo rumore per sentire che non c'è forma di amnesia. Sfiorando il Mamma Klum rigorosamente live a Broadcast Italia. Marco Sindona, Lorenzo Mazzè, Simone Gerbasi, Francesco Tribaldi, rigorosamente dal vivo e unplugged. Unplugged. Attenzione, arrivano gli applausi. Bene, ci siamo scaldati perché questa nottata romana da dove noi trasmettiamo è una nottata piuttosto fredda. Fa 6 gradi praticamente. Qual è il sistema con cui scrivete le canzoni? Arriva qualcuno, guarda, c'ho un pezzo, ho scritto una cosa. Ma guarda, in realtà dal primo periodo le cose sono un po' cambiate, perché all'inizio sai, una band di persone che si conoscono da anni, però poi per caso si trovano a suonare insieme. Ci deve essere sempre qualcuno che spinge un po' di più, per cui mi sono trovato io all'inizio a portare un po' di pezzi. E tu poi chi sei? Io sono il cantante Marco. Marco? Ok, ovviamente hai ragione. No, l'occhiata era giusta, perché giustamente non mi vedo. Allora, i primi pezzi sono stati portati a me. Poi è chiaro che in sala esce un riff, una cosa carina, e si prova poi a tirar fuori qualcosa di divertente, come qualcosa che sentiremo più avanti, non so, magari È colpa mia, per esempio, un pezzo che è nato un po' così, molto più corale, un po' così, nel senso all'inizio era una canzone, poi totalmente diversa, e ora portiamo praticamente una canzone dal vivo completamente l'opposto di quello che era quando arrivata in sala. Qualcuno se la ricorda com'era all'inizio, no? Per io! Ecco, lui se la ricorda, perché lui ha questa... No, la cosa divertente è come ci siamo conosciuti. Lui ha fatto per anni parte, Marco, il cantante, ha fatto per anni parte di una cover band dei Pearl Jam. E qui a Roma erano abbastanza famosetti, anche al nord, che erano i Senior Frogs. Yeah. E salutiamo i membri, gli ex amici. Membri. E noi ci siamo conosciuti all'università, alla nostra Roma 3, a ingegneria. Siamo tutti ingegneri praticamente. Tutti ingegneri, a parte e niente, partire. Però non avevamo mai suonato. Poi cosa succedeva? Io ho messo su una piccola sala. Lorenzo Mazzè, chitarrista. Ho messo su una piccola sala e i Senior Frogs sono venuti a provare da me. E è nato questo rapporto, insomma, con Mario, con Marco un po' più... Mario è quello della, con Mario, ecco, quello della canzone. Mario Sindone, certo. E poi un anno fa mi chiama, aveva già messo su questa storia, ma io in non realtà so avevo niente, conosciuto io... Francesco, il nostro bassista, sì. Una delle nostre serate. Cioè un casino, cioè, sì, è un... Sì, è una delle nostre... L'amore tra me e Lorenzo è nato 10 anni fa. Sì. Ecco. Siamo poi... Voglio prendere appunti. 10 anni fa. Ok. No, gli intrecci sono devastanti, guarda, gli intrecci sono assurdi. Allora, un esame fantastico in ingegneria era disegno di macchine. Il nostro professore era Aldo Del Bufalo. Aldo Del Bufalo. E invece di fare un esame, ci ha fatto fare un concerto. Ed era disegno di macchine, attenzione. Di macchine. Ci ha fatto fare un concerto, abbiamo organizzato un concerto all'università e ci siamo praticamente artisticamente ci siamo conosciuti lì. Abbiamo messo su lui ci ha dato anche i soldi per andare a provare. Cioè, fantastico. Noi siamo state, penso, le uniche persone ad aver suonato dentro le sale dell'università, dove ora la gente, in teoria, tra virgolette, dovrebbe studiare. Quella stanza è un po' ormai l'abbiamo uccisa, perché lavora lì, non studia più nessuno. Ovviamente. Poi le nostre sale sono divise e ci siamo rincontrati per sbaglio un anno e mezzo fa. Sai, dici, ma che fai? Che suoni? Che non suoni? Ma io c'ho un po' di pezzi. Vabbè, suoniamo. E quindi è venuto fuori una cosa che possiamo sentire adesso. Assolutamente. Forse, che è quella di cui stavamo parlando. Guarda, anzi, io direi che giusto per far capire il sound potremmo partire con... Prova così? Sì. Prova così, il pezzo di apertura del nostro EP. No, io chiedo sempre, perché sì, ragazzi, qui abbiamo tutti i gusti un po' diversi. Direi che possiamo ascoltare questo pezzo, che anche questa è una storia d'amore, amica. Siamo su Broadcast Italia, questa è Edith, e questi sono i Mamma Klum, e questa è una storia d'amore dei Mamma Klum. Down. Mama Klum, Lorenzo Mazzè, Simone Gerbasi, Francesco Tripaldi e Marco Sindona. In Mama Klum, beh, se provate così, ragazzi, non è mica male, eh. Questa. No, io non lo so io. È venuto bene questo pezzo. Beh, abbiamo registrato. Ma è uno, sì, poi tra parentesi, uno di quelli dove ci abbiamo perso anche meno tempo. Sì, sì, sì, poi è uno degli ultimi che abbiamo portato proprio. Ah, sì, è uno dei più nuovi. Stavamo per registrare, ok, ragazzi, parte registrazioni dell'EP. Facciamo cosa? Mettiamo in scaletta. E io c'ho un pezzo nuovo, lo faccio sentire. Basta, fatto. Sì, è così, d'ambletto. Amore a prima vista. Eh sì, perché poi questo è abbastanza. Anzi, immediato. Primo dito. Allora, abbiamo ospiti su Broadcast Italia, a Edit, lo dico per chi ogni tanto si perde nel web, perché la gente arriva sul web, sente due parole e poi se ne va, scappa via. Broadcastitalia.it, Mama Klum con noi ospiti, abbiamo sentito due brani, uno dal vivo, forse ce ne sarà un altro dal vivo, se non sbaglio, ma, intanto... Forse è una sorpresa, forse non si sa. Vogliamo salutare le nostre amiche che sono qui con voi, non lo so, sì. Allora, salutiamo Ilaria e Silvia, che sono due fanciulle che ci aiutano a diciamo a fare nell'immagine, quindi fanno spillette, adesivi, magliette, battesimi, matrimoni, no. sì, catering, banchetti, tutto qua. No, ci hanno dato una mano a fare tutte queste cose che fanno sembrare più veri. Dici, questa è una rock band, guarda, c'ho la spilla. Certo, vabbè, questo aiutano anche a sopportare i giorni uggiosi. Certo. Ecco. Alcuni di voi. Alcuni di... Senti, avete problemi di look? No, io ho dovuto tagliare i capelli. Avevo i capelli molto lunghi, io, Lorenzo. Tu pensa, se fosse venuto due mesi fa, non gli stavano le cuffie. Avevo i capelli molto lunghi. Infatti, sul MySpace, comunque, ho lasciato, diciamo, le fotine che mi ritraevano con i capelli un po' tipo Slash, il chitarrista di Guns N' Roses, che poi è il mio mito, diciamo. Intanto potete andare a guardare il loro sito su myspace.com, Mama Klum, oppure www.nientedistrano.com. Due brani abbiamo ascoltato. Prova così. Prova così e prima o poi. Prima o poi, rigorosamente live. E... abbiamo registrati poi in casa. Ah, sì, no, poi è tutto home edition. Abbiamo registrato la batteria nella nostra sala, nella grotta dove provavamo. Sì, c'erano licheni e muschi. È effettivamente una grotta, infatti abbiamo dovuto abbandonare a causa di muschi che ci hanno invaso. Pure i funghi se ne sono andati. Chi è il batterista? Lui. Che è quello che parla di meno, però suona di più poi. Simone è quello che ha detto. Quelli che mi precedono. La sua fama lo precede. Senti, che batteria c'hai? È una Yamaha. Quanti pezzi c'hai sopra? Due tom, due timpani. Semplice. Sì, sì, un po' di piatti quella. Però... ma stiamo aumentando la gear, non ti credo. Sì, no, ovviamente è una malattia. Noi siamo quattro malati. Siamo in continua espansione. Sì, no. La gas, la gear acquisition syndrome, sì, sì, è sempre... Noi siamo partiti che suonavamo con le mani, tipo i neri per caso. Sì, sì. Poi compri una cosa... Sì, è piano. Poi una cosa è d'altronde... Tra una Les Paul e una Telecaster... Peccato non abbiamo la telecamera perché è un gruppone qui in studio, il Mama Klum. Io te l'avevo detto però. Broadcast Italia, Edit, Enrico Di Troia al microfono con voi, Luciano alla console. E quale altro brano vogliamo ascoltare dei Mama Klum? Direi possiamo andare consultazione col singolo. No, ho visto che qualcuno aveva scritto una penna blu. Tu ti eri appuntato qualcosa, non barare. No, non bruciare, dai. Ho appuntato una penna blu perché mi sembrava... Che il pezzo è un po' più, diciamo, più duro. Radiofonico e un po' più... Perché è più duro? È più duro degli altri, insomma. Rispetto agli altri è quello col sound più tosto, diciamo così. Ma voi Unplugged avete fatto mai niente? Cioè, allora, guarda, ti dico in realtà noi abbiamo fatto una breve apparizione di una quarantina di minuti, 27 ottobre al Garden Grove, che sta a Borgo Pio. Bravissimo. Ma abbiamo un dicembre pieno di Unplugged. Sì, abbiamo un dicembre ricco. Salate proprio. Racconta. Sì, allora, noi suoniamo, ragazzi, aiutatemi perché la memoria. Il 13 al Fulic. 13 di che? Di dicembre. Detto, okay. Cioè. Poi suoniamo il 20 al Rockcastle. Sempre di dicembre. Non cambio mese neanche per la prossima. Il 28. Suoniamo all'Ottagono, facciamo il concerto di Natale tutti vestiti come Babbo Natale. Allora, probabilmente. Il Fulli che è sulla Nomentana, ecco, insomma, a via del... Vicolo della Fontana. Vicolo della Fontana. Yes. Mentre il Rockcastle è... Argentina. Sì, dalle parti, insomma, del ghetto. in centro. Io spero che abbiate dei pezzi di carta per appuntarvi le date. No, ma in realtà basta andare sul sito. Sul MySpace c'è scritto tutto. Figurati, ormai è tutto webizzato. A questo punto una penna blu mi pare tranquillamente. C'è per comodo, sì, sì, così apri un po' la porta perché io ho fumato nello studio. Non si fa e ci stiamo soffocando. Posso tutti. Posso dire solo una cosa su una penna blu? È una canzone dedicata alla nostra città, ci tenevo a dirlo. È una canzone dedicata a Roma, anche se non si capisce forse dal testo. Perché non si capisce? Non lo so, poi me lo dici se lo capisci. Va bene, sentiamo. Una penna blu, Mama Clum, da Broadcast Italia. Bella di notte. Mama Clum a Edit Broadcast Italia. Questo era un brano che loro hanno detto dedicato alla nostra città, a Roma. Ma dovete sapere che per venire a Broadcast Italia li hanno leggermente remixati questi pezzi, rieditati, è vero? Sì. Abbiamo fatto delle versioni più... noi le chiamiamo radio edit per far finta di essere... Sì, essere un po' più fighi. Un po' più fighi, insomma, vabbè. Sì, sì, no, per far capire subito l'intenzione del pezzo, subito la boss. Dunque. Sì, dunque. In realtà questa... Sì, però mi sembra che il chitarrista si sia preso un po' troppo spazio. No. Cioè, ma vero? Guarda, no, ti dirò, vero? Sai, lui è uno pagato, gli assoli piano. Sai, sì, poche note. Ma questa sindrome che sto sempre invadendo. Io parlo perché sono bassista, quindi ovviamente... Quindi ovviamente è lo strumento sempre più alto. No, sì, basso. Lui è il re degli invadenti. Non si sente il basso, alzati certo, tu. Funziona sempre così, però ci dobbiamo anche noi far valere. Ma giustamente sono io il chitarrista che mixo, quindi... No, in realtà gli abbiamo dato talmente spazio che poi li ha mixati per un po' da solo. E noi ogni volta andiamo lì, diciamo, guarda, giustiamo così, cosa... Dopo ce ne andiamo, ovviamente, tutto come prima. Tutto come prima. No, questo pezzo è stato tagliato all'inizio perché era attaccato al pezzo prima, che è Niente di strano, e che finisce, diciamo, con una coda di un minuto e 40. Di un minuto e 40, sì. Di delirio tipo Moonchild di King Crimson e The Court of the Crimson. Cosa un po' visionaria. Sul MySpace c'è tutto, quindi volendo scegliere su myspace.com tracce in ombra. Veramente un delirio. C'è tutto quanto il momento di pazzia suo, poi suo. Sì, no, di Lorenzo, è tutto suo. Però il taglio l'abbiamo gradito, è stato bello e anche radiofonicamente era molto, molto, molto apprezzabile. Dunque, il bassista parla poco. bassista parla poco. S'ha nascosto, non è stato programmato per parlare. Ah, non è stato programmato. No, lo devi accendere dietro. Lui sta qui comodo in cuffia, se sente il programma. Sì, io ho valuto la qualità della trasmissione. Broadcast Italia, Edit, sono ospiti con noi. Ospiti, tra poco andiamo a panino, a pane e stracchino. Mamma Gloom. Punta sul tavernello. No, io, visto che ci sono delle chitarre appoggiate allo studio, io vorrei sentire ancora qualcosa live o no? Ma sì. O volevate prima presentare qualche altra cosa, prima di... No, questo... Guarda, allora, in realtà noi qui abbiamo un momento di... non di cabaret come gli ultimi, ma un momento serio, perché siamo un attimo indecisi se far sentire una versione carina di un'altra canzone oppure questa novità. Questa è proprio una novità, l'abbiamo portata proprio l'ultima volta, abbiamo suonato l'8 dicembre, sì. No, l'8 novembre, in futuro no, ecco. 2007, sì, sempre dello stesso. Siccome ha riscosso pareri positivi, ci faceva piacere, si può dire, sì, si può para. Sì, no, si può dire anche culla, si può dire quindi prima ci sentiamo una cosa e poi andiamo live di nuovo. Certo, allora cosa sentiamo? Direi che possiamo sentire Colpa Mia. È Colpa Mia, che anche lei è molto efficace e immediata. È quella che è cambiata mille volte, che ti dicevamo prima. Adesso, io sentirò il chitarrista come è stato remixato. No, voglio proprio sentire questa storia. Sì, guarda, verso il 2 minuti ti accorgerai, ecco. Mamma Gloom, Edit, Broadcast Italia, è Colpa Mia. Notti buie mi ricordano, con una lanterna blu c'era una volta, ora non è. Lo sento nel... il chitarrista, manuale dell'arrogante. Marco Sindona, voce e chitarra, Lorenzo Mazzè, chitarra solista e cori, Simone Gervasi, batteria e come pesta, Francesco Tribaldi, basso. Si fa quel che si Mamma Gloom, live a Broadcast Italia. Dondola, dolce tra i rumori soffici di un manto blu, sembrano come... intrecciano tra le stelle di un cielo ancora più su. Un'illusione può portarmi via. Prendi me, mi piacerebbe vedere com'è. Non posso più cadere, sono sempre stato qui, o forse il mare ha chiesto di me. Anche se non puoi leggere, io sarò lì, ma dimmi. tiepida sta lì. Mi ipnotizza il canto di tutti i suoi nei. Un uomo solo, fermo in mare, voleva me. Accarezzo la mia dea, quattro parole in cerca di te. Prendi me, mi piacerebbe vedere com'è. Non posso più cadere, sono sempre stato qui. O forse il mare ha chiesto di me. Anche se non puoi leggere, io sarò lì. Ma dimmi cos'è, dimmi cos'è. Sono sempre stato qui, o forse il mare ha chiesto di me. Ha chiesto di me. Anche se non puoi leggere, io sarò lì. Ma dimmi cos'è. Questo vetto che fa questa cosa, io lo voglio. Mamma Klum live direttamente a Broadcast Italia e a Edit. Sono Marco Sindona, Lorenzo Mazzè, Simone Gerbasi, Francesco Tripaldi. Mamma Klum suoneranno prestissimo a Roma. Quando di nuovo? Il 13 dicembre al Fulic, vicolo della Fontana. Sì. Il 20 dicembre al Rockcastle. Aiutatemi, che è via di Beatrice Cenci, dalle parti del ghetto, bravissimo. E poi all'Ottagono il 28 di dicembre. Una serata condivisa con altri amici che salutiamo, i Zefiro. Noi invece salutiamo i Fabbrica Romana, che sono già in studio con noi e che nella seconda parte di Edit saranno ospiti qui da noi a Broadcast Italia. Sono già pronti in studio e intanto con noi ancora ci sono i Mamma Klum, che ancora non salutiamo perché abbiamo 5 minuti, ma due chiacchiere ancora ce le possiamo sì, fare. Sì. Il Mamma Klum, perché questo nome? Sono le iniziali dei nostri nomi. Ora ti racconto una cosa. Noi ci siamo seduti a un tavolo, mica abbiamo detto. E se ci chiede questa cosa, che gli diciamo? Perché in realtà il nome non ha molteplici significati, potrebbe essere interpretato in tanti modi. È chiaro che poi uno lascia spazio all'immaginazione, no? Per esempio tu, che ci vedi scritto dietro Mamma Klum? Mamma mia, quanto so professional. È una signora di colore che si chiama Mamma Klum. Quindi la classica massaia che cucina in Jamaica, che sta del 20 miliardi di chili di panni. E invece no. Hai visto? Perché è lo stesso, guarda, il gioco è lo stesso dei pezzi, i testi possono raccontare di tutto e di più. Sì, in realtà neanche lui sa di cosa. Come vedi, io sto schifosamente temporeggiando. Sì, no? Penso sia palese. La domanda iniziale. Io come esco da questa situazione? Io penso si possa far ascoltare il pezzo che dà il titolo al nostro EP, per esempio. Ottima idea. Hai visto? Vedi? Penso è niente, che di, niente strano. Di strano. Mamma Klum, Edit, Broadcast Italia, sono ospiti con noi, un branco di mattacchioni. Non sono più ospiti perché veramente, oltre al pane con lo stracchino, stiamo anche bevendo alcune cose, ma... ora si spiegano tutti i deliri. Adesso faccio un colorello, Io le sto fumando, per cui ti prego, continua ad aprire la porta, perché altrimenti soffochiamo qui dentro. Il brano che abbiamo scelto, lo ripetiamo ancora. Niente di strano, Mamma Klum. We'll be right back. Marco, la vorresti ricantare questa canzone sulla base? Niente di strano. Volo proprio. Nuovamente solo. Vorrei una lacrima su quella che ho. Mi tremano le mani. Tra fiumi di te strane c'era una volta il signor Rane. Parole ovvie, poche le. Qualcuno sosia di te. Non vedo ma riconosco. Non puoi perdere. Se mi produco io la prossima volta fai il raddoppio della voce, no, qua la chitarra acustica fa la citazione di Dogs di Pink Floyd. Perché noi siamo una cover band, non è proprio. Sì, no, no, noi in realtà è una cover band. Beh, col freddo che fa, giusto serve una cover band. Sì. Cover bisogna coprire. Ah, brividi, con te non ci si annoia proprio mai, eh. Ecco il solito chitarrista. Arrogante. Non vorrei dipingere una lacrima su quella che ho. Mi tremano le mani. Perché il buon Francesco è da vedere. Voi suonate peggio dal vivo o peggio in sala? Beh, ma in sala dice, direi che facciamo un po' schifo. Ma perché non abbiamo la gente davanti, non abbiamo la motivazione. Quindi pubblico, siete una live band. Noi siamo una live rock, certo. Band. Energia. Ma anche un po' dell'intenzione. Sì, la registrazione è stata quella. C'è ancora il finale? No, non c'è il finale. È finito con un gong, però. Il gong almeno. Dio santo gong. Perché il signorino batterista si è portato il gong immenso in sala. Per registrarlo l'abbiamo dovuto mettere su due ceppi perché era troppo grosso e toccava per terra. No, fortunatamente non è cascato. No, ma... però si è preso anche lui i muschi ripieni della sala. Sì. Io ho pulito la batteria con il cotton fioc a caso. Ah no, ancora la stai pulendo. Non ha finito, sono sei mesi. Sono sei mesi la sta pulendo. No, il gong è uno strumento impossibile da non andare a... A colpire, dai una mazzata, sì, no? E poi gliela devi dare proprio la mazzata, altrimenti sì, non esce fuori. Oltretutto ha un volume, spaventoso. E rimane a vibrare per un sacco di tempo. Sì. Ti passo ore. No, infatti, a casa da solo. Il mix è durato un minuto la traccia di gong. Perché non esci mai? Perché sei sempre a casa solo il gong, tu, eh? Sì, sì. Si diverte. E niente. Vabbè, io coronerò il mio sogno di pubblicare, di fare il produttore in sala di qualche gruppo prima o poi, perché... Prima o poi l'abbiamo suonata. Prima o poi... No, abbiamo ascoltato, a proposito, prima o poi, un brano dal vivo. Poi abbiamo fatto Prova così, che è l'apertura anche del nostro EP, e successivamente abbiamo ascoltato È colpa mia, che è il brano dalle Una penna blu, se non sbaglio. Ah no, una penna blu, penna blu. Radio edit, cioè fantastica. Attenzione. Alta comicità. E invece quella che abbiamo ascoltato poi dal vivo era una novità. Quella è una novità, si chiama Poche parole. E stiamo per mettere su YouTube un estratto video dell'ultimo concerto con quel pezzo a questo punto, perché crediamo che sia interessante farlo ascoltare. Perché quando facciamo un portale italiano? Che ne so? Dei video. Ci vediamo. Manca il tecnico. I contenuti ci sono già. I contenuti ce ne sono tanti. Sì, ci possiamo portarli. Io adesso non c'ho niente da fare. Domani mattina possiamo già. Fatto ci vuole? Aspetta, ora lo fa. Fatto. Posso fare un portone? Mamma mia. Potreste cominciare il vostro disco con un bel portale? Sì. Mama Klum live e su disco a Broadcast Italia questa sera con Edith, Rico Di Troia, microfono con voi. L'ora a loro disposizione è quasi finita. Ci saranno tra poco nella seconda parte di Edith i Fonderia Romana, che sono scalpitanti di là, hanno atteso un bel po', ma tra poco saranno qui con noi. Lo dico anche e soprattutto per coloro che li attendono sul web. I Fonderia Romana tra poco entreranno in sala e noi Mama Klum li lasciamo via. E io comunque qui stavo bello comodo. Faceva anche caldo. Poi la mozzarella di bufala era buona, il tavernello anche con vino. Sì, no, vabbè, questo no, no, non te la bevi tutta, questa mi serve anche per dopo. Sempre ingordo. Bene. Allora salutiamo dalle loro voci Francesco, che suona il basso, Lorenzo il chitarrista, Simone batteria, Marco la voce. Mama Klum, mama, yeah. Mama Klum, yeah. Mama Klum live a Roma tra qualche giorno, yeah. Il primo giorno, prima data, ciao Mama Klum. Il 13 di dicembre. Grazie per essere stati qui con noi, grazie per essere stati qui con noi. Edith vi saluta, Broadcast Italia vi ringrazia e noi mettiamo una sigla di Edith per poi riaprire tra poco per i Fabbrica Romana. A tra poco, broadcastitalia.it. Grazie per l'ascolto, grazie ai Mama Klum. Ciao. Broadcast Italia ha presentato Edith. Broadcast Italia, la storia e le voci delle radio quando erano libere.